Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Si scrive K-A-Z, due volte O, Kazoo, con questo oggetto, è uno strumento musicale, inizierà Mebius di oggi. Benvenuti dunque a questa puntata, sentiamo i titoli. Frank Zappa lo suonò nel suo primo album e Paolo Conte in un grande concerto live. È il kazoo, uno strumento a membrana risonante inventato da un signore che forse si chiamava Alabama West. Tra pochi giorni Avatar sarà sugli schermi dei cinema italiani, una rivoluzione nella tecnologia digitale con esoscheletri robotici contro un popolo di esseri intelligenti e con la coda. Vi ricordate Giuliani, il quasi ricercatore che sosteneva di aver predetto il terremoto dell'Aquila? La sua vicenda è ancora viva nella rete. Sto per parlare con il signore che suona questa cosa, sentite. Ecco, io la sfumo. Buonasera Igor Vazaz. Buonasera, buonasera a tutti. È lei che suonava questo? Sì, sì, direi proprio di sì, sono io. Si riconosce? Mi riconosco. Sì, esatto. Kazoo. Allora, Igor Vazaz, critico teatrale, anche musicista, però non è tanto, direi, insomma, una passione basta, lo fa anche in modo abbastanza professionale questo lavoro di musicista, no? Sì, impegnato sì, abbastanza robustamente, insomma. Esatto. Però critico teatrale e musicista, nel caso del kazoo, si mettono un po' insieme perché, insomma, certo, il teatro è voce e questo strumento è veramente strano perché è un modo di trasformare la nostra voce. Vogliamo provare a descriverlo un po', come è fatto? Sì, volentieri, perché è uno strumento molto facile da suonare, molto interessante anche nella sua definizione tecnica, perché è considerata una percussione e non un fiato, mentre invece solitamente è usato come una specie di fiato minore, una sorta di trombetta. E tecnicamente si chiamano mirliton questi strumenti, ossia membranofoni a suono determinato. E praticamente come avviene? L'emissione sonora parte dalla voce umana, che mette in vibrazione una sottile pellicola, spesso in plastica, ma può essere anche di altri materiali, e praticamente modifica la forma sonora originaria. Quindi è come se la voce vestisse lo strumento. Non si canta dentro il kazoo e non si soffia, cosa che per esempio fanno le persone che la prima volta provano a suonare lo strumento, però appunto quello che ne esce è una cosa molto diversa dalla voce del cantante ed è il suono dello strumento. È una cosa semplicissima e geniale che si può anche fare in casa con un pettine e una carta velina. Basta mettere la carta velina a contatto col pettine e poi provare a cantarci sopra. Allora, spero che lei adesso non si arrabbi, d'altronde ci ha mandato lei i file. Adesso qui c'è un grande casuista, no? Frank Zappa. Sì, un grande musicista tout court. Va bene, allora ne sentiamo un pezzetto. The left behind of the great society. Questo era addirittura nel primo album di Zappa? È addirittura la prima canzone del primo album di Zappa, Hungry Freaks Daddy. Tra l'altro un'accusa e una critica molto ironica all'America del tempo. E sì, in questo pezzo si sente, come dire, l'utilizzo satirico del kazoo, perché ha un suono particolare, un suono che non è fatto, come dire, per composizioni seriose. Si tratta comunque di uno strumento dalla nascita abbastanza interessante dal punto di vista culturale. Oh, esatto, è questo che mi interessa, e vorrei anche che ci raccontasse di questo Alabama West, un afroamericano. Sì, Alabama West, probabilmente West. Uno schiavo di Macon in Georgia, che assieme a Thaddeus von Klegg, un orologiaio tedesco, presentò il Down South Submarine nel 1852 alla fiera nazionale di Macon. Praticamente il primo nome del kazoo, kazoo è una parola che si afferma intorno agli anni 80 dell'Ottocento, si chiamava Down South Submarine. L'origine reale però dello strumento è quasi sicuramente africana, perché in Africa esistevano strumenti, percussioni a innesco vocale. Cui gli storici che studiano gli strumenti musicali riportano le radici del kazoo in Africa, cosa del resto molto diffusa per tanti altri strumenti che si affermano negli Stati Uniti nella metà del 1800, che è un momento particolarmente interessante di fusione culturale. Nessuno adesso sa che per esempio il banjo è in realtà lo sviluppo di uno strumento africano, di uno strumento senegalese, laddove per esempio gli wasp americani sono convinti che sia uno strumento bianco per eccellenza. la storia degli strumenti è veramente, soprattutto di quelli appunto più contemporanei, è veramente una storia molto strana. Senta, ma se io voglio procurarmi un kazoo, dove vado? Ma un qualsiasi, allora ce lo possiamo costruire in casa, però il kazoo fatto a forma, professionale, diciamo. Esatto, si trova in qualsiasi negozio di musica. Nell'intorno di un prezzo tra i 5 e i 10 euro. È sempre stato considerato anche uno strumento per bambini, proprio perché non c'è bisogno di esercitarsi, basta metterlo in bocca e cantarci dentro, emettere dei suoni, per cui non è che c'è una tecnica come per esempio per la tromba. Spero di essermi spiegato, insomma. Grazie Igor Vazaz. Io voglio ricordare che molto di più sul kazoo lei ha scritto su questa nuova rivista online, do l'indirizzo www.possibilia.eu, ma insomma Possibilia la trovate anche su Motore, una rivista nuova molto strana, piena di, molto eclettica, di articoli d'ogni genere, e lei ha una descrizione molto dettagliata e molto più ampia di quello che ci ha detto sulla storia di questo strumento. Vazaz, ci lasciamo con un grande altro pezzo di kazoo dovuto a Paolo Conte. Arrivederci e buona musica e buon teatro. Bene, buonasera, grazie. Arrivederci. Di profumo di libri vecchi sto per parlare con Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao, buonasera. Che ci chiami da Boston, dagli Stati Uniti. Profumo di vecchi, di quel caratteristico e anche affascinante profumo dei vecchi libri. Sì, odore di muffa, di erba, con un tocco di vaniglia e una punta acida, sto traducendo. Vabbè, nella seconda parte ti sei ripresa, all'inizio mi hai un po' distrutto perché... muffa, ma è vero, è un odore. Parliamo di libri, non di vini. Non di vini. È vero, i libri vecchi, una parte credo di quell'odore che si sente assolutamente caratteristico è abbastanza derivante da muffa. Sì. Va bene, e perché dobbiamo parlare di libri vecchi e di odore di muffa? Perché c'è uno studio pubblicato su Analytical Chemistry. Che ha sviluppato un modo per scoprire il grado di degradazione dei libri e dei documenti storici utilizzando questi odori caratteristici. Perché col passare a questo punto addirittura dei secoli anche l'odore della muffa cambia? L'odore della muffa cambia. E c'è un gruppo di ricercatori capitanato da Mattia Strlich, non so se pronuncio bene il cognome, che ha trovato 15 composti organici volatili che sono appunto responsabili dell'odore. Sì. E praticamente analizzando i gas che sono emessi dai vecchi libri e documenti, sì, fanno dire a che grado di degradazione si trova la carta e la rilegatura, e quindi se c'è bisogno effettivamente di fare un intervento per preservare. Perché in fondo non basta guardare, certo. Ci può essere un degrado che magari al tocco non ti sembra esistente, mentre invece siamo a rischio e magari dopo poco il libro se ne va. scritti. Non solo, in questo modo con i documenti più importanti non c'è il rischio di alterarli, perché fino ad ora si utilizzava un metodo per cui venivano rimossi dei pezzettini del documento e poi analizzati in laboratorio. Sì. Qui effettivamente si danneggiavano i documenti. Quindi ci sono dei nasi, no? Elettronici, ne abbiamo parlato altre volte in trasmissione ormai, dei nasi elettronici che sono in grado di captare una quantità di molecole bassissima, anche come quella che può essere emessa da un libro, perché tu stai dicendo gas che vengono emessi da un libro, cose assolutamente impercettibili. Oddio, però se ci mettiamo il naso vicino l'odore si sente, quindi non è che sono proprio impercettibile. Ecco, allora questi nasi sono in grado di analizzare le componenti di questo gas e dire a che punto siamo. Esatto, proprio in base alla quantità dei diversi componenti e anche in base alla composizione del libro stesso, perché ce ne sono alcuni che contengono resina, altri delle fibre di legno, altri carta e così via. In base a questo ci sanno dire come, a che punto di degradazione siamo rispetto alla composizione originale dell'oggetto. Sono già operativi, insomma, questo è già è un'ipotesi oppure hanno già della strumentazione? No, hanno già la strumentazione, hanno chiamato questa tecnica la degradomica dei materiali. Degradomica? La degradomica, sì. Corretto. Perché è una misura della degradazione. E l'idea è quella piuttosto di utilizzare questo metodo anche per preservare altri artefatti storici. Sì, estendere l'utilizzo. Certo. Cosa faranno fra 2, 3, 4 secoli quando ormai avremo tutti i libri e contenuti in strumenti elettronici? Lì da voi negli Stati Uniti c'è già Kindle, questo di Amazon che contiene 300 testi. Soprattutto qua adesso in questo periodo ci sono pubblicità ovunque con questi libri elettronici. Qui da noi sarà per il prossimo Natale, perché arriverà credo verso febbraio-marzo. Però poi addio profumo di biblioteca. Sì, beh, ci sarà quell'odorino tipico dei transistor, dei LED, non so, studieranno qualcosa di questo genere. Vedremo, vedremo. Grazie Paola, ciao. Ciao, buone feste. Buone feste anche a te. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. State pronti, pronte, perché sta arrivando il nostro quiz. Quale di queste notizie che ora vi leggerò è vera? La prima, allo zoo di Heidelberg, siamo in Germania, c'è un orangutan che sta imparando a fischiare. Ci scriverete fischio. Allo zoo di San Diego, negli Stati Uniti, un cavalluccio, un pony che porta in giro i bambini trainando un carretto, ha incominciato a nutrirsi, glieli danno i bambini, di un certo tipo di formaggini e adesso non mangia più erba ed è sottoposto a un'attività di rieducazione per tornare erbivoro. Ci scriverete erba. Terza possibilità. Allo zoo di Stoccolma, una leonessa, seppure tenuta in locali chiusi nel periodo invernale, è risultata particolarmente sensibile al freddo e le hanno dovuto fare su misura una tuta, insomma un golfino, come quello che si mette ai cani. Ci scriverete freddo, scriverete come al solito un SMS al 349-238-6666. Il libro in premio questa settimana è Polveri e veleni, viaggio tra salute e ambiente in Italia, scritto da Margherita Fronte e Luca Carra ed è delle edizioni Ambiente. In collaborazione con IBS.it. Dobbiamo abituarci all'idea che nella nostra vita quotidiana, nell'arco di una decina d'anni, si farà vedere un certo numero di robot. Forse avete già sentito parlare di robot che aspirano la polvere girando per la casa e passando in tutti gli angoli. Ma si sta pensando a macchine che possono fare di più, sempre in casa. È però in altri ambienti che i robot possono svolgere delle funzioni importanti. La Aeton, un'azienda di Pittsburgh, negli Stati Uniti, ha progettato e applicato in pochi ospedali un robot che porta farmaci nelle diverse aree operative di una clinica, ricevendo richieste dai vari reparti. Questo appunto è un esempio. Si tratta di una funzione importante che solitamente è svolta da umani, ma che porta via parecchio tempo e non è così sofisticata da richiedere necessariamente un umano, appunto. Naturalmente un robot che svolga una funzione di questo genere, pensate fra l'altro ai tanti magazzini, per esempio quelli degli empori che vendono mobili nei quali macchine di questo tipo possono essere utilizzate, un robot che faccia questo lavoro, dicevamo, deve avere un'interfaccia molto semplice con chi lo deve indirizzare. Ovvero, lui arriva in un posto e un medico, se torniamo nell'esempio dell'ospedale, deve potergli fare delle ordinazioni a voce. Se il medico dovesse utilizzare una tastiera, inserendo quindi dati a mano, tutto il processo sarebbe meno efficiente. Queste informazioni iniziali per dirvi che sta nascendo una competenza nuova, quella che studia l'interazione psicologica fra robot e umani. E ci sono già i primi esperimenti. Quale voce, per esempio, è bene dare alla macchina? Certe ricerche dicono che se la voce dei robot casalinghi è un po' infantile, questo migliora le cose perché ci rende più disponibili ad accettare degli errori che inevitabilmente la macchina compie. Teniamo presente che l'efficienza dei robot dipende anche da una fase di addestramento alle loro funzioni, all'ambiente in cui si muovono, fase che deve vederci, insomma, pazienti e comprensivi. Altre ricerche si soffermano sulla forma del robot e qui le cose si complicano perché una forma molto simpatica è ben accettata quando nella situazione dell'ambiente di lavoro va via tutto liscio. Ma se si entra in momenti di tensione, ecco che un personaggio che si presenta sempre con un fare cordiale, quindi rientra nuovamente la voce del robot naturalmente, può essere irritante, anche se si dovrebbe accettare che una macchina è una macchina, non può avvertire se nel magazzino, per esempio, c'è una certa tensione. Ma non vi sembri strano che fra i progettisti di robot vi sia anche chi pensa che un paio di modi di parlare, commutabili a seconda dei momenti, siano una buona idea. Sei Jack Sully? Vorremmo parlarti di una nuova vita su un nuovo mondo. Potrai impegnarti in qualcosa di importante e decisivo. Sono diventato un marine per il lavoro duro. Mi sono detto che potevo superare tutti i test che un uomo può superare. Io ho sempre cercato la sola cosa per cui valesse la pena lottare. Signore e signori, non siete più in Kansas. Siete su Pandora. Dovreste vedere le vostre facce. Qui c'è una popolazione indigena, i Navi. Sono molto difficili da uccidere. È per questo che siamo qui, perché questo sassolino grigio si vende a 20 milioni al chilo. Il loro villaggio casualmente è situato sul più ricco di questi depositi, perciò devono andarsene. Quei selvaggi stanno minacciando tutta la nostra operazione. Siamo sull'orlo della guerra e tu dovresti cercare una soluzione diplomatica. E invece la soluzione diplomatica per tutto l'inizio del film non c'è affatto. Non la trovano. Stiamo per parlarvi di Avatar, che sarà sugli schermi in tutta Italia fra pochissimi giorni, poco più di una settimana. Ciao Chiara. Ciao Federico. Buonasera a tutti. Sì, sarà il 15, quindi tra pochissimi giorni in tra tutte pochissimi. Le sale. In realtà in America è già uscito. È già uscito un mese fa. Qualche indiscrezione c'è. Qualcosa c'è, però il film è molto blindato in rete, trovate al massimo il trailer, anche YouTube ha cancellato tutti i tentativi. Le immagini, sì. Come in tutti i trailer avete avuto una sintesi rapidissima della storia, c'è un pianeta sul quale c'è una popolazione, i Navi, bellissimi devo dire, azzurri, sì, sono alti, molto slanciati. Con la coda di cui parleremo più tardi. Disgraziatamente su questo pianeta c'è un materiale probabilmente interessante per usi elettronici che costa... Interessante 20... per gli umani, sì, mi sì, sembra che sia proprio una risorsa energetica che può salvare la Terra. Micidiani. Ormai siamo attaccati a questo, ecco. Ormai siamo dopo il vertice di Copenaghen arriviamo a Pandora. A Pandora, dove in questo film però, non vi stiamo a dire molto, c'è però una storia che diciamo dal punto di vista politico, culturale è estremamente interessante perché c'è tutto un rapporto è sofferto. Anche estremamente odierna, è un po' gli attacchi, la esatto. guerra, però poi c'è anche una storia d'amore, dobbiamo dirlo. C'è una grandissima storia d'amore. Sì, non svegliamo molto di più. Christian Jezdic, buonasera. Buonasera, ciao Federico. Ciao Christian. Buonasera. Direttore responsabile del 3D e degli effetti speciali del gruppo Square, che è uno dei gruppi a livello internazionale più abile, più produttivo nel campo appunto degli effetti speciali. Christian. E in questo film devo dire che se ne è fatto man bassa. Abbondantissimo uso. Ecco, sì. però tutti sì. voi esperti e anche gli altri che stanno incominciando a vederlo e commentare dicono che questo film rappresenta dal punto di vista degli effetti speciali una svolta netta. Assolutamente pare essere così, perché con Avatar sicuramente il limite a cui ci si era spinti finora con gli effetti speciali viene spinto un pochino più in là. Per la prima volta si vedono degli umanoidi che sono credibili, che sembrano recitare, che pare che esprimano delle emozioni reali. Cioè sono delle ricostruzioni digitali umanizzate al massimo. Umanizzate al massimo, è stato fatto ampissimo uso di una tecnica molto particolare di animazione che si chiama motion capture. Si tratta in pratica di catturare i movimenti di attori reali che vengono poi riapplicati sui modelli tridimensionali che si vanno ad animare. Questa tecnica permette di mantenere una fluidità del movimento e un realismo molto spinto nelle animazioni, perché sono degli attori veri e propri in carne ed ossa che interpretano il movimento. Ecco, però Christian, come dicevi tu all'inizio, questa tecnica l'abbiamo già vista negli ultimi 7-8 anni applicata. E insomma, io guardando questo trailer a un certo momento ho dovuto interrogarmi se c'erano alcune scene digitali e in altre invece c'erano degli umani truccati da quali fossero gli attori in carne e ossa e quali no. Insomma, sì, perché Cameron ha dichiarato di aver fatto tesoro dell'esperienza realizzata fino ad oggi da altri importanti film. Per esempio un film che gli va molto molto vicino come budget, se non addirittura lo supera, è stato Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Dove si sono visti degli effetti speciali e un fotorealismo, un iperrealismo molto spinto. Il 16 dicembre Cameron ha dichiarato di aver speso per Avatar 237 milioni. Il massimo forse speso per un film di questo tipo? Sì e no, va molto vicino a quello di Harry Potter, però sono stati spesi 150 milioni di marketing. In più? Assolutamente. Quindi è un'operazione da 500 milioni di dollari, che probabilmente rientrerà anche in ballo un video. C'è una stima di 300 milioni di euro ai box office solo negli Stati Uniti. Christian, però tu prima citavi Cameron, non l'abbiamo ricordato, James Cameron è il regista che è lo è stesso il produttore di Titanic, del film. È anche produttore. Che tra l'altro ha dichiarato di aver concepito questo film 15 anni fa, quando ancora non aveva la tecnologia necessaria per realizzarlo. Infatti lui ha dichiarato di aver aspettato che la tecnologia fosse pronta, perché in realtà non è che non fosse possibile animare modelli tridimensionali in maniera credibile, piuttosto che appunto come si è già visto in altri film, ma è la resa fotorealistica che si è spinta veramente molto in là, considerando anche il fatto che Cameron è uno dei forti sostenitori della stereoscopia. Non dimentichiamoci che questo film ha un aspetto molto importante, che è un film stereoscopico. Certo, sì. quindi con macchine da ripresa doppia. Esatto, quindi anche tutta la parte virtuale è stata un dispendio di energie importantissimo, infatti c'è un crew di operatori che ci hanno lavorato infinito, perché tutta la parte di computer grafica chiaramente è doppia certo. Perché è 3D. Quindi per vederlo è necessario indossare degli occhialini. Ancora sì, ancora senti, sì. Senti Grisa, però c'è un punto in conclusione che dobbiamo chiarire bene. Sì. Questa grandissima naturalezza che viene fuori dipende essenzialmente dal fatto che ha speso 350.000 euro al minuto, cioè macchine, computer che sono andati in quantità impressionante in funzione per giorni e giorni, cioè sì. È basata su questo o c'è anche qualcosa di più? No, è basata in parte su quello. La tecnologia, come sappiamo, cresce velocissimamente, quindi è possibile avere macchine sempre più potenti che chiaramente aiutano gli artisti, i registi in questo difficile compito di ricreare la realtà in maniera virtuale, artificiale. Sicuramente però ha fatto tanto il bagaglio di esperienza che si è creato in questi anni. Non dimentichiamoci che c'è un fenomeno molto importante, che è la migrazione di centinaia di operatori che lavorano su questi film da una produzione ad un'altra. Quindi quando gli operatori finiscono di lavorare, per fare un esempio, Harry Potter che abbiamo citato prima, spesso si ritrovano poi a lavorare su altre grandi importanti produzioni, portandosi dietro il know-how, chiaramente certo. migliorandolo. Caspita, fra 15 anni chissà cosa saremo in grado di fare, Christian. È abbastanza inimmaginabile, ma saremo tutti qui a raccontarcelo ancora. Secondo me i personaggi usciranno dallo schermo e arriveranno in sala. Ehi. Speriamo che siano simpatici. No, ma poi io penso che avremo dei film con Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, assolutamente. Ah, che rivivono, certo. Sì, c'è da dire una cosa, grazie Federico dello spunto che mi hai dato, perché in effetti quelli che vediamo in Avatar non sono ancora esseri umani, perché l'essere umano è ancora la cosa più difficile da riprodurre. Perché li conosciamo bene. Perfettamente, esatto, è semplice da capire, perché essendo la cosa che conosciamo meglio di tutto, restituirla e ricrearla in maniera virtuale, farla credibile è veramente molto molto complesso, e ancora non ci si è arrivati del tutto. Si possono fare quelli che si chiamano digital doubles. Peter Jackson nella saga del Signore degli Anelli ne ha fatto un utilizzo ampio, sono praticamente le controfigure digitali che si utilizzano per esempio negli shot molto larghi. Sì, dove sì, ma Christian, molta definizione. Vedrai che ci fregheranno. Ci fregheranno. Sicuramente. Sì. Va bene Christian, va bene. Grazie, ci sentiamo tra 15 anni. Buon proseguimento. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Torniamo ad Avatar, Chiara. Sì, lo stiamo eviscerando prima che ancora esca nelle sale. In uno dei suoi aspetti, in questo caso centrali, perché appaiono delle macchine in questo film che sono, forse la definizione non è corretta, sono dei robot dentro i quali ci sono degli umani. Per parlare di ciò abbiamo chiamato l'ingegner Fabio Salcedo. Buonasera Salcedo. Buonasera. Della scuola Sant'Anna di Pisa, la scuola superiore, che è una scuola di eccellenza a livello mondiale anche nel campo della robotica. Lei in particolare lavora al laboratorio di interazione avanzata uomo-robot. È così, no? Esattamente. Ecco, nel film infatti appaiono questi robot, questa sorta di esercito robotico, che però in realtà non sono dei veri robot, ma sono degli esoscheletri, possiamo chiamarli così, come una grossa protesi nei quali appunto viene contenuto poi l'essere umano. E allora volevo capire da lei, ingegnere, se è una cosa così lontana dalla realtà o in realtà ci sono delle ricerche che voi fate anche adesso su questo tema. No, assolutamente. Noi abbiamo realizzato un esoscheletro per tutto il corpo, in grado di inseguire sia i movimenti del busto, delle braccia e delle gambe, che è in grado di amplificare quando se ne presenta la necessità, la forza dell'uomo. Amplifica quindi la forza dell'uomo, non lo mette in difetto, che ne so, di locomozione, è perfettamente a suo agio l'uomo. Beh, diciamo, adesso il risultato che abbiamo ottenuto avrebbe bisogno dei miglioramenti da quel punto di vista, quindi miglioramenti prestazionali, quindi i movimenti che riusciamo a fare sono relativamente lenti, però diciamo prevediamo che sia possibile migliorando il livello della sofisticatezza del sistema di controllo, ottenere delle prestazioni per cui l'uomo si potrà muovere in modo naturale. E quindi in questa direzione il film prefigura un orizzonte praticabile. Le chiediamo un'ultima cosa. I robot, quelli autonomi, insomma, che non hanno dentro umani, i veri robot, hanno ancora un'enorme difficoltà a muoversi con le loro gambe, per esempio, insomma, a correre. Qui invece noi vediamo delle macchine che riescono a muoversi in una foresta tagliando alberi. Agilità incredibile, davvero. Un'agilità eccezionale. Effettivamente, quella duttilità di movimento che ha il corpo umano in un esoscheletro robotico così è perfettamente trasmissibile, allora, cioè l'uomo riesce ad avere con i piedi grandi di ferro la stessa capacità per esempio di correre? Diciamo, esistono già degli esoscheletri realizzati in America e anche in Giappone che hanno una struttura molto più semplice di quella che abbiamo realizzato noi, però per altre applicazioni, che effettivamente hanno un livello di agilità molto, molto elevata. Il nostro sistema è un sistema che invece è orientato alla movimentazione di materiale, una struttura più massiccia, più pesante, e ha attualmente meno agilità, ma come dicevo prima sarà possibile nel futuro renderlo comunque più agevole. Brevemente, uscendo dal film di fantascienza, quali saranno le applicazioni poi nella vita reale di questo tipo di ricerca? Diciamo, allora, ci sono delle due linee sostanzialmente. Una sono relative al supporto per esempio degli anziani o dei disabili nelle loro attività quotidiane, quindi camminare. Proprio un aiuto fisico. È un aiuto fisico, sì. È un supporto. Quest'altra linea che stiamo seguendo noi è proprio per la movimentazione di materiali in ambienti non strutturati, come chiamiamo, che sono inaccessibili ai normali sistemi di movimentazione materiale. Per esempio, uno scenario tipico potrebbe essere quello del rimuovere le macerie nel caso di un terremoto. Chiarissimo. Per recuperare delle vittime. O sott'acqua, per esempio, o sullo spazio. No? Su altri pianeti. Sì, anche, sì. Diciamo in tutti quei casi in cui è richiesta una notevole, diciamo, complessità nella movimentazione del materiale, intendo il movimento che deve essere impresso al materiale è relativamente complesso come movimentazione, quindi deve essere spostato, riorientato nello spazio, eccetera, e in più occorre che ci sia una sensibilità, perché la macchina è capace di restituire la sensibilità del task. Per intenderci è come se fosse una specie di servosterzo, no? Rimane comunque una sensibilità, cioè un'amplificazione di forza, ma esiste una sensibilità sul task che si sta eseguendo. Va bene, grazie Salcedo, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Buonasera. Voglio che tu li conosca da vicino, voglio che ti guadagni la loro fiducia. Tu non dovresti essere qui. Vattene. È tutta colpa tua. Devi aiutarmi. Sapevi che sarebbe successo? È cambiato tutto. Quello che avete appena sentito è un brevissimo passaggio di dialogo tra due navi, un lui e una lei. Questi famosi indigeni di Pandora. Esatto. Io non so come potremmo essere qua, io e te in studio, se avessimo la coda. Se avessimo la coda, se fossimo blu, se avessimo il naso come una specie di tigrotti sembrerebbero questi, esatto, navi. E sono anche alti 3 metri. Aspita! Sono molto grandi. E fanno dei balzi, ho visto nel trailer. Eccezionali. Per parlare di questa coda che noi non abbiamo, il nostro ospite che ci guiderà, insomma, ci farà un po' capire. Diamo un taglio un po' paleoantropologico al film. E infatti insegna paleoantropologia presso l'Università La Sapienza. Buonasera Giorgio Manzi. Salve, buonasera. E anche lei insegna storia naturale dei primati, che è un po' questa la competenza che ci ha portato verso lei. Di lei. Sì. Allora, noi non abbiamo la coda. Ma in realtà... potremmo? Noi non abbiamo la coda effettivamente, anche se abbiamo un residuo di coda che sono quelle piccole ossa sotto il nostro osso sacro, ciò che rappresenta una sorta di retaggio di una coda che c'era e che non c'è più. Non siamo gli unici a non avere la coda, in effetti la coda ce l'hanno moltissimi animali, tutti i vertebrati hanno una coda, ci sono delle eccezioni naturalmente, e, per esempio non so, una rana non ha la coda. È vero. Ah, un coccodrillo sì. E poi tra i mammiferi ovviamente, insomma, in particolare tra i primati, cioè le proscimmie e le scimmie hanno quasi tutte la coda, anche qui ci sono delle eccezioni, sono delle code molto variabili, da code che hanno funzione soprattutto di segnale, ad altre che hanno funzione moltissime, di equilibrio nel movimento sugli alberi. Ecco, quindi probabilmente quella dei navi ha proprio questa funzione, perché loro si lanciano anche da un albero all'altro, quindi probabilmente non è soltanto una questione estetica, ma probabilmente aveva anche questo tipo di funzione quando sono stati studiati. Loro sono in grado di fare dei grandi balzi, ma è una coda prensile. Questo dal trailer non si riesce a capire. Beh, in effetti anche in natura ci sono delle code prensili. Sì, non sappiamo se i nostri amici avessero delle code prensili, però ci sono delle code prensili tra alcuni primati, ma di una linea diversa, diciamo, dalla nostra. Sono le scimmie cosiddette del Nuovo Mondo, alcune di loro hanno una coda prensile che funziona proprio da quinta mano, ma non è il nostro caso, perché appunto noi, un po' come le rane, ma per tutt'altra storia, non abbiamo la coda, e non solo noi non abbiamo la coda, ma non ce l'hanno tutte le scimmie antropomorfe, nel senso che se noi guardiamo al mondo dei primati, dobbiamo pensare a un mondo estremamente vario. Di solito si pensa alla scimmia, in realtà di scimmie ce ne sono almeno 300 specie e tra queste 300 specie alcune sono le cosiddette antropomorfe, sì. Scimmie che ci assomigliano molto proprio per questo nome e noi siamo strettamente imparentati con loro. Il fatto di essere imparentati geneticamente e anche ovviamente per l'aspetto significa, da Darwin, dai tempi di Darwin abbiamo capito che questo significa che abbiamo un antenato in comune piuttosto recente. E da questo antenato abbiamo ereditato tutti quanti l'assenza della coda. Le antropomorfe come il gorilla, lo scimpanzé, l'orangutang, e noi altri non abbiamo la coda perché a un certo punto della nostra storia evolutiva un nostro antenato comune l'ha persa. E se l'ha persa, come dicevamo prima, un motivo ci deve essere. Qual è? Ma non è chiarissimo, ma è molto probabile che sia legato al diverso modello di locomozione del nostro antenato e di molte delle antropomorfe attualmente viventi, che è un modello di locomozione un po' diverso da quello degli altri primati, legato a una modalità che noi chiamiamo brachiazione. Cioè siamo scimmie che in epoche antiche si muovevano quasi esclusivamente con la forza delle braccia. E poi da questo modello di base ci sono state molte diversificazioni, a tal punto che poi nel caso dell'evoluzione umana addirittura il rapporto braccia-gamba si è invertito, noi invece di muoverci sulle braccia ci muoviamo solo sulle gambe. Ma comunque abbiamo ereditato questa assenza di coda che deriva da quelle fasi antiche in cui eravamo brachiatori. Ma senta Manzi, però la coda nell'elefante mi pare che serva poco. In altre scimmie invece, queste dell'uomo mondo, come le dicevo, addirittura è una quinta mano. Ma la coda, per esempio, ai leoni serve? Cioè è solo una roba estetica, no? Oppure ci sono diverse funzioni, in effetti. Ci sono aspetti, diciamo così, estetici agli animali, nel senso che ci sono alcuni caratteri che sono legati al riconoscimento degli individui come membri della stessa specie o al riconoscimento sessuale, però spesso un carattere ha più funzioni, certo. Quindi non so, ad esempio mi vengono in mente i lemuri, alcuni lemuri in particolare, che sono delle proscimmie, quindi più strettamente imparentate a noi che non un leone, in cui la coda ha una doppia funzione, una funzione equilibratrice nel movimento, un po' come quella di un gatto, diciamo. Invece nel gatto serve, no? Per esempio, sì, quando cade, serve, si dice, no? Serve molto proprio per equilibrarlo nel movimento, soprattutto nel balzo o nei movimenti in equilibrio precario. Un po' come l'ombrello dell'equilibrista, insomma, per capirci. Ma al tempo stesso questa coda può avere un significato fortissimo anche dal punto di vista, diciamo noi, vessillifero, cioè di segnale. Pensiamo a quanti messaggi si mandano, non so, tra loro i cani muovendo la coda. È vero, è vero. Sì, più è vero. O meno veloce, più o meno in alto. Esattamente, o lo stesso fanno i gatti. E che dire allora della coda dei mammiferi acquatici, i cetacei come i delfini o le balene? Caspita, si danno la coda, ci si muovono con la coda, certo. Ma perché? È una coda trasformata in organo propulsivo. Ah, quello, allora quella pinna di fatto è una coda che è diventata così importante. Sì, sì, appunto, la coda ha mille funzioni ed è un biologo che ha usato la fortunata espressione che l'evoluzione funziona un po' come il lavoro di un bricolaire, di uno che fa del bricolage. Nel senso che la natura spesso utilizza delle strutture preesistenti per funzioni diverse. È così che funziona l'evoluzione, in effetti. Esiste come una materia prima che in base alle diverse esigenze di adattamento viene di volta in volta cooptata per funzioni differenti. Su un numero praticamente infinito di variabili. Pensiamo, no? Ai pavoni, ad esempio, che certo. Usano e fanno. Esattamente. Beh, però se avessimo qualcosa così qua in studio non ci staremmo nemmeno no, in due. No, non sarebbe comodo. No, non sarebbe comodo. Anche per noi indubbiamente non sarebbe comodissimo avere la coda, insomma, soprattutto dovendo indossare dei pantaloni. Sì. È vero, ha perfettamente ragione. Infatti i navi sono nudi. Infatti i navi sono praticamente nudi. Va bene, grazie professor Manzi per questa lezione sulla coda. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. Vi ricordate? Vi ho letto tre notizie, dovevate decidere quale era vera. C'era l'orangutan che sta imparando a fischiare, il pony, il cavalluccio che ha imparato a mangiare i formaggini e invece deve essere erbivoro, e poi la leonessa dello zoo di Stoccolma che sente un po' troppo freddo e le hanno fatto praticamente un golfino. Bene, la risposta giusta era questa. Ma richtig laut. Ecco, questo qui è un orangutan che fischia, sta imparando a fischiare ed è allo zoo di Heidelberg in Germania. Vi ricordate di quel signor Giuliani che sosteneva di aver predetto il terremoto dell'Aquila? Non se ne parla più da mesi, ma in rete, in internet, la sua storia continua. Come? Me lo racconta Maurizio Menis. C'è un luogo in cui le emissioni di gas radon sono considerate ancora segno certo di un terremoto imminente. Questo luogo è il web. Parliamo della vicenda di Gioacchino Giuliani, il tecnico dei laboratori del Gran Sasso che aveva lanciato un allarme terremoto nella zona di Sulmona pochi giorni prima che una scossa di grado 5,8 della scala Richter colpisse effettivamente l'Aquila, con i risultati che tutti conosciamo. Sui media tradizionali la parabola di Giuliani durò pochi giorni, insomma si capì rapidamente che non si potevano prevedere i terremoti in quel modo, con l'episodio del radon che veniva derubricato a semplice coincidenza. Sul web però le cose sono andate molto diversamente. Emiliano Ricci, giornalista scientifico e blogger, ha analizzato il fenomeno Giuliani sul web e ne è venuto fuori un dato, lo vedremo, abbastanza sorprendente. Ricci è in linea con noi, diamogli il benvenuto. Buonasera Ricci. Sì, buonasera a tutti, salve. Allora, com'è che si è sviluppato questo caso Giuliani in rete? Sì, già al primo studio si capisce che il ciclo di vita della notizia nei nuovi media, appunto nei blog, nei social network, è molto più lungo e amplificato rispetto a quello dei media tradizionali. Come diceva lei, nelle televisioni e nei quotidiani principali la notizia della previsione fatta da Giuliani ha avuto una durata di circa una settimana, poco più. Gli istituti principali, quelli deputati a questo tipo di attività, tipo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si sono limitati a fare un comunicato stampa poco oltre, mentre invece in rete ancora oggi, siamo a fine 2009, il dibattito sulla bontà o meno delle previsioni di Giuliani è ancora attivo e abbastanza serrato. Troviamo tanti blog, tanti siti che parlano ancora con post e con commenti. Ancora però più interessante andare a visitare i social network come Facebook. Su Facebook si sono osservati, proprio anche prima che nascesse il caso Giuliani vero e proprio, la nascita di alcuni gruppi a favore di Giuliani, proprio al momento in cui Giuliani cominciò a fare la previsione su Sulmona, e questi gruppi si sono moltiplicati a dismisura, sono diventati più di 100, e alcuni con addirittura 15.000-20.000 fan agguerriti a favore di Giuliani contro un numero di gruppi a favore, diciamo fra virgolette, della scienza ufficiale, che si attesta su un numero molto inferiore, attorno a 10 se non meno. Del caso Giuliani noi troviamo anche dei post di blogger che parlano in maniera critica dell'episodio, con dei post anche scientificamente molto corretti e ben documentati, ma li troviamo nella decima pagina dei risultati. Certo. Ecco, una domanda: i contenuti che emergono in questi blog, diciamo non ortodossi dal punto di vista scientifico, hanno un certo livello di approfondimento? Da dove prendono, per esempio, le informazioni per sostenere le proprie opinioni? In questo caso, ma si può dimostrare anche in molti altri casi, la rete ancora non si dimostra un medium maturo, nel senso che quello che si dibatte in rete è in realtà quello che si è visto sia in televisione o si è letto sui giornali. Raramente si trovano informazioni originali o spunti originali tratti dalle fonti primarie che in realtà in rete si trovano. Quindi una specie di prolungamento della fase polemica tipica dei media classici, che a un certo punto si risolve, invece li va avanti. Esattamente, con dei bot e risposta anche abbastanza violenti, infocati verbalmente. In questi giorni siamo testimoni di episodi abbastanza interessanti da questo punto di vista, cioè sulla rappresentatività della popolazione italiana presa nel campione di popolazione su Facebook. Devo dire che Facebook riflette abbastanza bene io credo la sociologia, del nostro paese. Esatto, io credo che i sociologi dovrebbero dedicare un po' più di attenzione a questo fenomeno, perché se effettivamente abbiamo sotto gli occhi un campione di popolazione italiana molto rappresentativo, che è lì da analizzare tranquillamente senza, diciamo, senza dover fare particolari sforzi tipo indagini telefoniche o sondaggi o cose di questo certo, tipo. È anche un campione caratterizzato abbastanza fortemente proprio dall'uso delle tecnologie informatiche. Ecco, io però tornerei un attimo sulla questione comunicazione della scienza in rete. Ci sono altri casi ai quali stiamo assistendo, penso per esempio all'influenza 1. Si ritrova anche in questi casi lo stesso tipo di meccanismo, lo stesso tipo di fonti? Assolutamente sì, anche la questione antivirali, vaccini per l'influenza H1N1, noi abbiamo a disposizione in rete degli strumenti molto importanti, sto pensando che so a Google Scholar, che è un motore di ricerca che va ad analizzare, a pescare nella letteratura scientifica, quindi se noi andiamo su Google Scholar e digitiamo in inglese le due parole radon seismology, Google Scholar ci fornisce qualche cosa come 5.000 risultati di articoli scientifici che parlano del radon come precursore sismico. Che però non vengono molto consultati. No, insomma, alcuni di questi risalgono addirittura agli anni 50. Va bene, come facciamo a uscire da questa situazione? Diciamo, preso atto che in questa fase le istituzioni che fanno ricerca e che devono fare anche comunicazione istituzionale verso il pubblico, in questo momento non hanno la forza per essere fortemente presenti in rete come possono fare le agenzie di pubblicità che fanno viral marketing, un'idea potrebbe essere quella di accreditare quei blogger che si stanno muovendo sul campo facendo comunicazione scientifica e accreditandosi proprio perché sono scientificamente ben articolati. Mi pare di capire che il dato che emerge di fondo è che la scienza ufficiale si preoccupa molto poco di fare comunicazione in rete, al di là poi del criterio che si individua per rendere riconoscibile come informazione scientificamente corretta quella per esempio prodotta da certi blogger piuttosto che da altri. C'è un dato di fondo di scarsa attenzione. Assolutamente, certo, sì. Una risposta brevissima: funziona nello stesso modo all'estero o invece all'estero sono più attrezzati? Io ho davanti a me l'esempio del mondo anglosassone. Nel mondo anglosassone abbiamo sicuramente una maggiore presenza in rete anche delle istituzioni ufficiali, però c'è una forma molto forte di riconoscimento degli esperti non inseriti nelle istituzioni ufficiali che vengono comunque citati, ripresi anche dai siti ufficiali. Quando la NASA lancia un dibattito su un determinato argomento e alcuni commentatori ne parlano, la NASA accetta commenti sul proprio sito, quindi è un aspetto abbastanza ben coltivato e ben presente nel mondo anglosassone. Grazie Ricci. Grazie a voi. Brian Thomas è un signore inglese di 65 anni. Soffre di una patologia che per certi versi è simile al sonnambulismo, ma che è meglio definita come disturbi che dilatano la condizione di dormiveglia. E ne soffre fin da giovane. Qualche anno fa, mentre era in questo particolare stato psicofisico, ha strangolato la moglie. Era di notte e lui ha dichiarato che durante l'omicidio stava sognando che degli estranei malintenzionati erano penetrati nella camera da letto. Volevano ucciderlo. Lui si è difeso, ma l'unico corpo che aveva a disposizione era quello della moglie e quindi l'ha uccisa. A Londra Brian Thomas è stato ovviamente processato e durante l'inchiesta e il dibattimento sono stati ascoltati molti scienziati che si occupano di queste patologie. Alla fine la Corte l'ha assolto. Il problema, sento che l'avrete tutti intuito, è in che misura si può accertare che il soggetto menta oppure sfrutti per propri interessi non del tutto leciti una patologia che comunque possiede. Perché nella storia clinica di Brian Thomas la sua malattia è presente. Questo è un risultato evidente fin da subito. Cosa conosciamo oggi dei possibili comportamenti in queste alterate condizioni di vita? Vediamo. Claudio Bassetti, uno scienziato italiano che lavora all'Università di Zurigo, ha fatto ricerche sui sonnambuli. è riuscito a collocare dei sensori sul cranio di un soggetto affetto appunto da sonnambulismo con l'obiettivo di registrare l'attivazione delle diverse aree cerebrali durante la fase di dormiveglia. Siamo nel campo oggi molto applicato delle neuroimmagini, ovvero di quelle mappe che ci dicono quale area cerebrale, in seguito ai più diversi segnali che raggiungono la nostra mente come alle più diverse azioni che compiamo, quale parte si attiva proprio lì, nel nostro cervello, nella nostra mente. Sappiamo, per esempio, che quando mettiamo in moto il nostro corpo, cioè quando sviluppiamo una precisa intenzione, quella di muoverci, una data area della corteccia si attiva e con il neuroimaging sappiamo dov'è. Dalle ricerche di Bassetti a Zurigo è emerso che il suo soggetto sonnambulo mostrava le aree del movimento attivate, mentre altre, quelle connesse a stati emozionali, risultavano silenti. La conclusione che si può ricavare sembra quindi abbastanza diretta. Il soggetto può muoversi, cioè camminare, muovere gli arti e quindi anche, perché no, stringere due mani intorno al collo di qualcuno, mentre la sua attività emozionale sarebbe del tutto sganciata. Tutti d'accordo? No. Altre ricerche sollevano dubbi. C'è poi un dato che complica notevolmente le cose. Nello stato di sonnambulismo si manifestano anche delle propensioni del soggetto. Ci sono sonnambuli, per esempio, che tendono a raggiungere sempre un certo luogo, vanno in cucina, aprono il frigo e mangiano. L'interrogativo è il seguente. Se una persona ha maturato il desiderio di uccidere un'altra, se quindi in una forma di odio distruttivo è emersa in questo soggetto l'esigenza appunto di un omicidio e abbiamo a che fare con un personaggio però che soffre di questi disturbi del dormiveglia, è possibile che in modo del tutto inconsapevole, ecco la domanda, questo suo desiderio si concretizzi mentre quasi dorme o quasi è sveglio? È possibile questo? Non si è ancora in grado di rispondere a queste domande complesse ed è tutto da vedere, fra l'altro, se lo sarà in futuro. In generale comunque è forse bene che in tribunale si assolva in presenza di dubbi, non si può certo mettere in cella una persona. Termina qui questa puntata di Möbius. Buona serata a tutti e a tutte e ci sentiamo la prossima settimana.